Buonasera a tutti da Radio Virus, io sono Livio e stasera parliamo insieme di aborto in tempi di pandemia. Sono qui con la mia amica Elena Caruso in collegamento telefonico. Ciao Elena! Ciao ragazze, ciao ragazzi! Elena Caruso, oltre che essere una mia amica, è una dottoranda all'Università di Kent. Si occupa del tema dell'aborto nelle sue ricerche per il quale ha scritto su varie riviste scientifiche, tra cui Feminist Legal Studies, Feminist Review, ma anche su quotidiani come Corriere della Sera e Manifesto. È giovane attivista di Non Una di Meno e del collettivo catanese Rivolta Pagina, nonché cofondatrice di Pro Choice, rete italiana contraccezione e aborto, che è l'associazione che ha formulato questa lettera indirizzata al ministro Speranza e al premier Conte, di cui parliamo questa sera. Allora, Elena, il tema di questa sera, quindi, appunto, è il tema dell'aborto in tempi di pandemia. Mi piacerebbe capire con te, fare un excursus sulla legge 194 del 22 maggio 1978, che regola la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza. Facciamo un excursus a partire dall'ordinamento, dal nostro ordinamento legislativo intorno all'aborto. Capiamo qual è lo stato di cose in tempi, diciamo, normali, non di epidemia, e come questa situazione si sviluppa in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo adesso. Ma partiamo dalla base. Qual è lo stato legislativo sull'aborto nel nostro paese e cosa prevede il nostro ordinamento? Grazie Livio, grazie anzitutto a te per la sensibilità verso questo tema e grazie a Radio Virus per questo. Come giustamente dici tu, la legge sull'aborto mi sembra un ottimo punto di partenza per capire qual è lo stato dell'aborto oggi in tempi di pandemia. Intanto l'aborto è legale nel nostro paese dal 1978 grazie alla legge che tu hai citato del 22 maggio 1978, la numero 194. Quindi questa legge è stata, brevemente lo voglio ricordare, l'esito di una lunga e travagliata battaglia non solo istituzionale, ma che si è combattuta anzitutto dalle piazze. Diversamente da altre leggi nazionali, io penso all'Abortion Act del 1967, che ha legalizzato per esempio l'aborto del Regno Unito e che fu un'operazione, se vogliamo, un po' dell'establishment medico, la legge 194 al contrario fu una legge che venne dalle piazze, venne dal movimento delle donne e da una feconda sinergia che si creò in quel momento tra le piazze e le istituzioni parlamentari. La nostra è una legge particolare per tanti motivi, non solo per questa storia peculiare, ma perché è una delle prime leggi che legalizza l'aborto dentro un paese cattolico come l'Italia. Ricordiamo che l'aborto è stato legalizzato in paesi cattolici solo recentemente, penso al caso irlandese, dove l'aborto è stato legalizzato solo nel 2018, e al nord, all'Irlanda del Nord, che pur essendo parte del Regno Unito ha visto la legalizzazione solamente da pochi mesi. Quindi voglio un attimo ricordare quella stagione assolutamente eccezionale che da un punto di vista anche legislativo ha attraversato l'Italia nel 70. Effetti di movimenti di piazza praticamente. Esattamente, la legge del 1978 fu espressione di un compromesso che comunque non poteva non essere raggiunto senza un movimento di piazza che in qualche modo ricattò il palazzo, perché ti dirò di più, la legge 194 ha anche un'altra eccezione che direi unica al mondo, porta le firme ben di 5 politici democristiani. Fu una legge firmata sotto il governo Andreotti, questa è un'eccezione ed è una cosa che spesso viene dimenticata, ma la legge 194 porta in calce 5 firme democristiane. Come fu possibile una cosa del genere? Perché c'era un movimento che in qualche modo ricattava, se vogliamo, il palazzo, ricattava il Parlamento, ricattava il governo, perché il rischio era quello di un referendum che si sarebbe poi compiuto diversamente mesi dopo, si sarebbe dovuto compiere nell'estate, inizio estate del 78, che avrebbe destabilizzato il governo Andreotti, che era già abbastanza indebolito dagli eventi che avevano attraversato l'Italia in quel periodo. Ricordiamoci che proprio inizio maggio fu trovato il cadavere del presidente Moro, quindi era un momento di grande instabilità, e Neviari Andreotti dice: se io non firmo questa legge, l'Italia rischia anche di non solo avere la legge sull'aborto, ma di perdere la presidenza anche della DC. Quindi questo è un attimo un momento storico, sostanzialmente. Esatto, è un piccolo commento che voglio fare per in qualche modo ricordare com'è stato possibile che l'Italia già nel 78 si fosse dotata, pur essendo un paese cattolico, chiaro, a forte tradizione cattolica, di questa legge. Detto questo, entriamo nello specifico dell'ordinamento. Entriamo nel presente, perché io, come sai, adoro la storia, ma è bene guardare il presente. Fatto questo excursus, la legge 194 è vero che ha in qualche modo estirpato un po' il fenomeno degli aborti clandestini che c'erano prima del 78, ma non è una legge perfetta. È una legge che ha tanti problemi, tante faglie. Infatti, prima di coronavirus, in qualche modo i servizi abortivi non funzionavano già benissimo nel nostro ordinamento. Ora, questa legge è monitorata annualmente, teoricamente, da due relazioni ministeriali, una del Dicastero della Salute e l'altra del Ministro della Giustizia. Guardando alla relazione ministeriale, purtroppo l'ultima non è stata ancora emanata, quindi abbiamo ancora solo i dati della relazione pubblicata nel gennaio 2019, registriamo ancora un dato inquietante, che è quello dei medici ginecologi che non effettuano l'aborto, i servizi abortivi, perché si dichiarano obiettori di coscienza. E qua vogliamo percentuali quasi il 70%, 78,4%. Nella relazione a Roma, a gennaio 2019, il Ministero continuava a dire quelle che sono ormai parole a cui siamo abituati, cioè che in Italia si fanno pochi aborti, che il tasso di abortività nel nostro paese è fra i più bassi tra quelli dei paesi occidentali, che quindi tutto va bene, che in Italia i servizi abortivi ci sono, ma le donne abortiscono meno. Tutto bello, però, sempre lo stesso gennaio del 2019, da Strasburgo, quindi cambiando un pochino le latitudini, qualcuno diceva qualcosa di diverso, era il Comitato Europeo dei Diritti Sociali che esprimeva ancora preoccupazione per lo stato dei servizi abortivi in Italia. Diceva: ma attenzione, ma questi aborti stanno diminuendo perché c'è meno domanda, come legge il Ministero da Roma? O perché forse sono meno gli aborti legali, perché sono meno quelli legali che vengono fatti, e quindi c'è un rischio di un aumento degli aborti clandestini? Queste sono le preoccupazioni che vengono da Strasburgo, che è già in due decisioni, nel 2013 e nel 2015, ha condannato l'Italia per non adeguarsi agli standard della Carta Europea dei Diritti Sociali sul diritto alla salute e al principio di non discriminazione. Quindi questo è lo stato dell'arte prima della pandemia Covid-19, detto veramente in parole povere. Poi potrei andare un po' più nei dettagli e dire che questa visione, diciamo, in qualche modo trionfalistica di Roma, che viene in qualche modo messa in discussione da Strasburgo, è in qualche modo, smentita anche dai comitati dell'ONU. Anche i comitati dell'ONU hanno più volte segnalato la situazione preoccupante in Italia. E in Italia come siamo messi? In Italia, oltre che la Laiga e le organizzazioni dei ginecologi pro-choice, ricordo che anche altre associazioni hanno più volte espresso le proprie preoccupazioni sullo stato della 194, la CGL, ma anche la stessa organizzazione dei magistrati, chiamata Magistratura Democratica, ha firmato proprio qualche anno fa un bellissimo editoriale che si chiamava Diritto all'aborto, diritto negato. Quindi la situazione già prima del Covid era abbastanza problematica. Cioè, abbiamo una legge, ma questa legge sebbene ha sicuramente migliorato le condizioni prima del 1978, è comunque una legge che non garantisce purtroppo un accesso effettivo ai servizi abortivi alle persone che lo richiedono in Italia. È una legge piena di trappole o di barriere, per citare l'OMS. È una legge che appunto prevede ancora la settimana obbligatoria di pausa, è una legge che ancora colpevolizza chi accede agli aborti, ma anche chi li pratica. Insomma, il personale medico pro-choice è un personale ormai ridotto all'osso, i medici che fanno l'obiezione di coscienza, cioè che non fanno obiezione di coscienza, sono l'eccezione anziché essere la regola, e questo dopo 40 anni. L'obiezione, più che essere transitoria come si pensava agli inizi, è diventata in qualche modo endemica all'interno della categoria dei ginecologi. Sì, tra l'altro, rispetto a questi problemi c'è tutto un movimento che anche interno nello stesso Non Una di Meno, che con il progetto Obiezione Respinta prova ad arginare appunto questo problema dell'obiezione di coscienza. Quindi diciamo che comunque internamente al paese ci sono anche delle realtà che si muovono contro chiaramente questa ondata di obiezione di coscienza che grava sulle possibilità per le donne per la propria interruzione volontaria della gravidanza. Senti una cosa, ok, ci hai dato un attimino un quadro sulla situazione della legge, ce l'hai anche contestualizzata benissimo in ambito europeo. Volevamo capire a questo punto, data la situazione della legge, quali sono le criticità che rimangono in tempi invece di pandemia come quelli che stiamo vivendo adesso, e quali nuove criticità questa legge, diciamo, fa emergere rispetto alla possibilità dell'interruzione di gravidanza quando le strutture nostre ospedaliere, come in questo caso, sono chiaramente in una condizione di estrema crisi, ma anche quando le donne stesse sono impossibilitate ad uscire di casa secondo le ordinanze dei decreti del nostro governo. Allora, guarda, io direi che le criticità che ho più o meno in qualche modo sintetizzato, perché ce ne sarebbero anche delle altre, io credo che rimangano, quindi non vengano meno, semplicemente si amplificano, perché ovviamente in piena pandemia ed emergenza sanitaria i problemi non possono che aumentare. Qui devo fare un attimo una brevissima spiegazione del perché, in che modo il Covid incide in questa cosa. Allora, in Italia si può abortire in due modi. Il primo è l'aborto chirurgico, il secondo è l'aborto farmacologico. Ora, che ci sia bisogno di una ospedalizzazione per l'aborto chirurgico credo sia intuitivo, e quindi su quel punto poco da fare. Invece l'ospedalizzazione è obbligatoria, richiesta anche per l'aborto farmacologico, e questo è ancora più sospetto. Spiego perché. Allora, dal 2010 il Ministero della Salute ha emanato queste linee di indirizzo sull'aborto farmacologico nel nostro paese. Qua voglio fare un attimo un richiamo. In Italia sono arrivate nel 2010 questa legalizzazione, se vogliamo, dell'aborto farmacologico, con un ritardo veramente spaventoso: 1988 Francia, 1990 Regno Unito, noi 2010. Detto questo, è ancora più assurdo e difficile da comprendere le modalità con cui l'aborto farmacologico è stato in qualche modo ammesso e legalizzato nel nostro paese. Si prevede un ricovero di 3 giorni ordinario e la possibilità di accedervi solo nelle prime 7 settimane di amenorrea. Quindi la situazione è abbastanza strana, perché non ci sono casi simili di regolamentazione dell'aborto farmacologico in questi termini in nessun ordinamento che io conosca. Anzi, se qualcuno che mi ascolta conosce casi simili, per favore segnalatemelo, perché anche secondo l'OMS l'aborto farmacologico è safe fino alle prime 9 settimane. E inoltre non è prevista questa ospedalizzazione, addirittura di ricovero di 3 giorni, veramente da nessuna parte per l'aborto farmacologico, tanto che le stesse alcune regioni italiane si sono discostate da queste linee di indirizzo, esercitando una propria autonomia legislativa e prevedendo in dei hospital l'aborto farmacologico. Quindi ad oggi la situazione è questa. Praticamente le donne sono obbligate ad andare in ospedale per fare l'aborto con più accessi, perché l'aborto medico si fa con questi due farmaci, mifepristone e misoprostolo, che si prendono a distanza di 24 ore. Se calcoli che, a parte questi due accessi, in Italia è previsto una necessaria certificazione, la donna quindi in questo momento ha necessariamente deve andare 3 volte in ospedale. Questi obblighi di ospedalizzazione non sono cambiati in tempo di pandemia, ma è ovvio che diventano problematici in tempo di pandemia, perché da una parte alcuni servizi sono stati in qualche modo assottigliati, contratti, proprio perché i letti, gli anestesisti che sono necessari quando tu ovviamente fai l'aborto chirurgico, sono in questo momento impegnati a far fronte alla pandemia. Quindi ci sono state diverse inchieste in questo momento giornalistiche che su varie testate hanno messo in evidenza come sembrerebbe che i servizi di VG in questo momento siano particolarmente a rischio, cioè ce ne siano, sia ancora più difficile del solito accedervi, sia perché il farmacologico in questo momento ti impone un'ospedalizzazione maggiore al chirurgico e quindi alcune unità hanno deciso di convertire da farmacologico a chirurgico, sia perché il chirurgico in sé diventa molto complesso da garantire perché richiede una quantità di risorse che in questo momento, soprattutto nelle zone più toccate dal Covid, giustamente, ragionevolmente sono state investite per far fronte all'epidemia. Quindi questo è il problema che si sta ponendo adesso e questo è il motivo per cui, questo non è neanche un problema solo italiano, cioè il problema dell'ospedalizzazione dell'aborto in tempi di Covid è un problema, vorrei dire, quasi planetario. Tanto che i problemi che ha l'Italia si riscontrano anche in altri stati, solo che in altri stati, per esempio penso alla Gran Bretagna e in Francia, si sono prese delle misure per evitare le ospedalizzazioni non necessarie anche in materia di servizi abortivi. Ad esempio in Francia e appunto in Gran Bretagna, prendendo le mosse dalle indicazioni che venivano dalle rispettive organizzazioni di categoria dei ginecologi e delle ostetriche, si è introdotta la possibilità dell'aborto telemedico, cioè dell'aborto farmacologico effettuato in modalità di telemedicina, che è un'opzione in più che viene data a quelle donne che non possono muoversi in questo momento. Ecco, ecco, quindi ci addentriamo sostanzialmente in quella che è stata la vostra proposta in quanto associazione pro-choice, è oggetto appunto della lettera che indirizzate al ministro Speranza e al premier Conte. Tu tra l'altro hai scritto, hai contribuito alla scrittura non solo dell'appello di questa lettera, ma anche di un articolo sul Corriere che fa appunto luce su questa proposta che portate avanti in quanto associazione pro-choice per, diciamo, tappare questo buco, per risolvere un po' queste criticità che emergono in tempi appunto di pandemia. In cosa consiste questa proposta e cosa sostanzialmente quale diritto state difendendo e quali e soluzioni state proponendo? Ok, allora il diritto che difendiamo è il diritto delle donne alla salute, ma più in generale anche il diritto alla sanità pubblica, perché in questo momento tutti i DPCM, cioè tutti i decreti Conte, così diciamoli così, che sono stati adottati in questa settimana, dicono una sola cosa: evitare più possibile i contatti sociali, perché ogni contatto sociale in più è un rischio in più di contagiare o venire contagiati. Quindi in qualche modo, nello spirito anche dei DPCM, sono state formulate le nostre proposte. Allora, le nostre richieste sono fondamentalmente quattro. La prima è allineare in qualche modo l'Italia rispetto all'aborto farmacologico, quindi privilegiare l'aborto farmacologico e quindi fare in modo che questo sia accessibile fino a 9 settimane, come attestato dalla migliore letteratura scientifica e dalla stessa Organizzazione Mondiale di Sanità. Quindi passare dalle 7 alle 9 settimane allineandoci al resto del mondo. Poi, secondo punto, eliminare proprio il carattere antiscientifico, oltre che antieconomico, della previsione del ricovero, che dicevo, di 3 giorni per l'aborto farmacologico. 3, ammettere la possibilità di introdurre il regime di aborto farmacologico anche coinvolgendo i consultori, gli ambulatori, e che quindi diventerebbero protagonisti, perché oggi i consultori sono solo il posto in cui le donne possono rivolgersi per ottenere la certificazione, ma l'aborto viene fatto solo negli ospedali. Invece la nostra proposta prevede un coinvolgimento di quelle strutture, di quei consultori che sono i presidi territoriali che ormai dal 75 abbiamo nel nostro paese, anche per la salute, per la maternità, per la famiglia, il nostro ordinamento, di rimetterli al centro e di dargli in qualche modo nuova linfa in questo momento di emergenza, coinvolgendoli nelle procedure dell'IVG in modo attivo. Quindi i consultori potrebbero diventare luoghi in cui le donne possono essere già visitate e avere ovviamente il certificato, ma anche avere già le pillole per accedere alla procedura. Quindi la nostra richiesta prevederebbe il regime cosiddetto ECHOM, che è già quello che era in vigore in Regno Unito e in Francia prima del coronavirus, cioè prima di introdurre il telemedico, cioè la possibilità di prevedere un unico così passaggio in ospedale o in consultorio, quindi una sola ospedalizzazione invece che le 3 minime che ci sarebbero oggi, con l'assunzione del mifepristone e la somministrazione a domicilio del misoprostolo. Quindi le donne verrebbero seguite diciamo a distanza già per il misoprostolo. La quarta opzione è proprio quella di introdurre in via transitoria durante questa fase proprio tutta la procedura da remoto con l'aborto telemedico in tutti quei casi in cui le donne magari sono in quarantena, non si possono spostare, non possono neanche fare quell'unica ospedalizzazione. Si può introdurre questa opzione, che ovviamente deve essere rimessa al rapporto medico-paziente, alla valutazione del medico se si può fare o non si può fare nel caso di specie, eccetera eccetera, però introdurre questa nuova opzione che suona in qualche modo completamente nuova in Italia, ma in realtà non lo è. C'è già ampia letteratura sull'aborto telemedico ormai da diversi anni, tanto che è stata in qualche modo proposta dalle stesse organizzazioni di ginecologi ostetriche in Regno Unito, come dicevo, e in Francia, e i rispettivi governi le hanno adottate. Quindi non è una idea, diciamo, balzana che è venuta a noi, è un'idea che è già stata collaudata da ampia letteratura scientifica ed è già stata adottata anche da altri governi a noi vicini, di paesi a noi vicini, per cultura, per storia e tradizioni. Quindi queste 4 sono le nostre proposte. Bene, senti, ma quale sarebbe a questo punto un eventuale iter, una volta che viene presentata appunto tramite questo appello, tramite questa lettera, insomma questa proposta di intervenire sul regolamento, ecco? Allora, in realtà diciamo che 3 delle proposte su 4 non toccano neanche la 194, quindi perché lo spostamento della sarebbero, diciamo, a legge invariata, perché lo spostamento tra 7 e 9 settimane per il farmacologico, così come l'eliminazione della raccomandazione del ricovero ospedaliero e il regime ambulatoriale ECHOM che descrivevo, possono essere fatti subito a legge 194 invariata, semplicemente aggiornando le linee di indirizzo sull'interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandina che il Ministero della Salute aveva emesso nel giugno 2010. Quindi basterebbe solo questo già per soddisfare 3 delle nostre richieste su 4. Sulla quarta proposta basterebbe introdurre delle misure urgenti, così come è stato fatto in questi ultimi giorni, cioè in pandemia l'ordinamento, lo Stato, il governo, l'abbiamo visto, ha assunto delle... diciamo, la pandemia è stata la base giuridica per assumere delle decisioni che hanno fortemente limitato le nostre libertà, anche quelle, diciamo, più inderogabili, se vogliamo, in regimi normali. Cioè la libertà personale in questo momento degli italiani è stata fortemente limitata perché c'è un stato di pandemia, e questo stato di pandemia può giustificare anche che vengano adottate delle misure temporanee, eccezionali, anche in materia di salute. Quindi dal punto di vista giuridico non mancano le basi per poter emettere delle misure d'urgenza. Però ripeto, in delle richieste che facciamo su quattro non è necessario neanche toccare la legge, perché già la 194 ammetterebbe l'adozione in questi termini del trattamento, l'erogazione in questi termini del trattamento tramite pillole. Quindi servirebbe solo aggiornare le linee di indirizzo ministeriali. Quindi veramente mi appello al ministro Speranza, che sono certa che ascolterà questa puntata. Ministro, aggiorni le linee di indirizzo del 2010 e faccia dell'Italia un paese europeo anche sulle IG. Per favore, ministro, grazie. Senti una cosa, Elena. Innanzitutto sei stata veramente molto precisa e ti ringrazio per questa cosa. Con tutte queste riflessioni, ok, che stiamo verso le quali tu ci stai conducendo, come queste riflessioni possono aiutarci per un dopo? Perché abbiamo visto che anche attraverso i giornali, attraverso i telegiornali, sostanzialmente c'è una narrazione temporale divisa in tre, tra un pre-pandemia, un periodo di pandemia nel quale siamo ancora fortemente dentro, e un periodo post-pandemia, un periodo post-crisi che viene visto come un periodo molto sui quali non possiamo fare delle grandi previsioni. Ecco, in merito alla questione dell'aborto, come queste riflessioni possono aiutare a magari anche a cambiare un dopo, a vedere un attimino, a rivedere la nostra condizione giuridica ma anche sociale e culturale rispetto alla questione dell'aborto e alla libertà dell'interruzione volontaria della gravidanza? Allora, diciamo che io vedo due scenari. Quello che deve essere chiaro è che le donne, anche durante la pandemia, hanno bisogno di accedere all'IVG e all'aborto. Il punto è: se il Ministero adotta queste misure che noi chiediamo, abbiamo buone possibilità che le donne continuino a rivolgersi ai servizi territoriali, allo Stato, per tutelare la propria salute e interrompere le gravidanze che sono indesiderate, di farlo in sicurezza. E quindi in qualche modo queste misure eccezionali, se dovessero venire introdotte durante questa fase di pandemia, potrebbero servire in qualche modo come fase anche per valutare se per esempio le proposte che abbiamo avanzato noi siano proposte che veramente rispondono ai migliori interessi per la donna, se siano poi concretamente attuabili nel contesto italiano, eccetera. Quindi potrebbe servire questa fase come periodo di verifica, e poi eventualmente dopo la pandemia per ritornare allo stato precedente, oppure per confermarle, oppure per modificarle, eccetera. Quindi in materia di IVG, se le nostre proposte venissero inserite, introdotte domani legalmente, potrebbe servire come in qualche modo periodo per rodare la bontà di queste proposte, che è un po' quello che penso accadrà in Francia e in Gran Bretagna, dove sono state inserite proprio in via temporale. L'altro scenario che invece resti lo status quo, e allora qui io ti dico sinceramente che sono preoccupata che quei numeri che il Ministero della Sanità ci dà tra i 12.000 e i 15.000 sull'aborto clandestino, cioè questi sono dati del Ministero della Salute, queste sono le stime che fa degli aborti clandestini in Italia prima del Covid, possono aumentare. E io allora, dinanzi ad un allontanamento possibile delle donne dai presidi medici, io credo che questo sia un rischio che il Ministero non dovrebbe assumersi, non solo perché le donne correrebbero a rischio alla propria salute, ma sì, in qualche modo più in generale verificherebbe un ulteriore scollamento tra lo Stato e le istituzioni e appunto le sue cittadine, i suoi cittadini. Cioè, se le donne sanno che non possono contare sullo Stato e l'IVG, il trattamento dell'IVG è un caso, in qualche modo questo potrebbe essere un ulteriore elemento che stacca e crea uno scollamento in questo senso, in qualche modo buttando queste donne e costringendole alla clandestinità. Quindi anche dopo la pandemia, se le donne hanno trovato dei loro modi clandestini, perché ritorna l'aborto clandestino in Italia come se fossimo a prima del 78, poi voglio vedere come lo Stato riuscirebbe a rimettere controllo sulla situazione. Quindi per me questo è il rischio che si corre se non si interviene subito, che facciamo veramente un salto indietro di 42 anni. Il 22 maggio la legge del 194 fa 42 anni, certo. E noi rischiamo di arrivare a quella data 42 anni indietro. Questo è quello che voglio dire. Quindi per questo vorremmo che il Ministero intervenisse subito. Siamo già in ritardo, perché le donne sono già in qualche modo in difficoltà adesso per accedere all'IVG, quindi ogni secondo che perdiamo è un secondo veramente prezioso che si sta perdendo. Questi sono i due scenari che vedo. Chiaro. Io spero che verrà presa una decisione al più presto, ecco. Senti una cosa, rispetto a questa proposta che state insomma elaborando, quali critiche vi aspettate, quali posizioni pensate che possa far emergere se non sono già emerse, diciamo quali ostacoli può incontrare una proposta del genere a livello politico, a livello sociale, a livello culturale? Allora, diciamo che anche qui farei delle distinzioni. Il primo è in qualche modo la critica che ti viene anche dallo stesso magari mondo della sanità, cioè da chi sta nei servizi di ginecologia e di ostetricia. Allora, se noi conosciamo il caso italiano è un caso abbastanza problematico, come dicevo è unico, perché da noi i servizi di IVG farmacologica hanno ancora percentuali veramente basse, cioè ci attestiamo intorno al 17%, quindi da noi ancora l'IVG farmacologica viene fatta da pochissimi ginecologi, quindi c'è un problema di proprio accessibilità all'aborto farmacologico, diciamo, in tempo di pace. Quindi in qualche modo la critica che io posso immaginare è: come si può immaginare che in poco tempo possano essere aggiornati le tecniche per tutti quegli altri abortion providers che ancora fanno anche il raschiamento? Perché ricordiamoci che ancora in Italia, questo ce lo dice il Ministero della Salute, ci sono posti in cui addirittura per il 40% dei casi viene fatto il raschiamento. Cito il caso della Sardegna, sempre da ultima relazione ministeriale. Quindi immediatamente è implicita nella nostra richiesta un corso, un modo di fare una formazione a distanza, cosiddette FAD, per i ginecologi, per metterli, diciamo, nella posizione di imparare queste tecniche, come si fa l'aborto farmacologico, eccetera. Quindi c'è questo come primo piano, qualche critica che posso immaginare. Questo chiaramente comporta anche dei costi, tutto questo percorso. Immagino che possa avere dei costi. Però dall'altra parte credo anche che l'aborto, per esempio in telemedicina, possa anche abbattere alcune barriere locali, perché se per esempio una donna a quel punto con l'aborto in telemedicina praticamente è il servizio che viaggia senza che sia necessario più per le donne spostarsi, come fino ad ora accade, no? C'è anche uno studio in questo momento condotto dall'antropologa Silvia De Zordo, che con la sua squadra sta studiando gli spostamenti delle donne in Europa, sia sia dentro gli stati che tra stati, tra gli stati studiati c'è anche l'Italia, quindi questo spostamento con la telemedicina non sarebbe necessario, perché se io posso accedere al servizio, mettiamo il caso, da Gela o da Catania, dove ci troviamo noi due tra l'altro. Esatto, no, non siamo a Gela ma entrambi a Catania, per esempio a Roma, in forma di telemedicina, questo permette anche di in qualche modo colmare le eventuali lacune che possono esserci su alcuni territori rispetto ad altri. Certo. Detto questo, è ovvio che la proposta di telemedicina, essendo è una proposta assolutamente nuova, ora io non so se addirittura l'articolo che ho scritto io insieme a Marina Toschi, che lei è una ginecologa che fa IVG da 40 anni, addirittura forse siamo state le prime a usare la parola aborto telemedico, che io ho semplicemente tradotto dall'inglese, quindi questo ti fa capire come si tratti di una... cioè proprio di un trattamento quasi sconosciuto in Italia, su cui non c'è stato dibattito. Quindi io penso che una proposta del genere rispetto all'aborto telemedico dal punto di vista culturale possa suonare nuova non solo come plausibile da, diciamo, dall'opinione pubblica, e quindi sia una proposta, se vogliamo, me lo dico da sola, debole per questo, perché se non si conosce un servizio come si dovrebbe reclamare? Certo. Ma dall'altra parte credo, ho il sospetto che sia un'opzione anche poco discussa, quindi dagli stessi operatori, se abbiamo ancora così pochi ginecologi che fanno gli aborti farmacologici. Quindi questa, diciamo, secondo me è forse l'aspetto un po' più debole, se proprio devo dire, che forse è attaccabile, immagino, dall'esterno. Detto questo, sull'aborto e regime ambulatoriale invece non ci vedo grandi critiche che possono essere mosse, perché veramente è una cosa che ormai si fa da un bel po' di anni anche in Francia, e ci sono un sacco di studi su questo, il Regno Unito idem. Poi ovviamente, a parte il mondo pro-choice, la critica perenne ti viene dal mondo pro-life, ma quello è ovvio, chiaramente. Qualsiasi cosa io possa dire, là si parte da basi ideologiche sbagliate, e io su ovviamente un piano ideologico non discuto, io sono disponibile a discutere con tutti su un piano scientifico accreditato dalla letteratura, ma la magia non mi interessa, il dibattito ascientifico non mi interessa, e quindi ovviamente il mondo pro-life sicuramente immagino sarà il primo a criticarci su una cosa del genere, se non lo ha già fatto, e mi risulta di sì, mi risulta che siano già in giro petizioni che criticano la decisione del governo di ribadire l'ovvia non differibilità dell'IVG anche in tempi di coronavirus. E poi sul piano personale ho letto che, insomma, sono stata citata insieme alla collega e amica Toschi su un giornale pro-life che appunto citava l'articolo che tu hai detto, insomma, che tu stesso hai letto sul Corriere della Sera, che parlava dell'aborto in telemedicina. Insomma, non si è perso tempo, ovviamente. Sì, però ecco, il mio desiderio è che di essere ascoltata con la stessa reattività dal Ministro della Salute. Chiaro, certamente. Quindi ancora una volta mi appello al Ministro che pensi a noi. Certamente. Va bene, Elena, io penso che grazie tantissimo innanzitutto perché sei stata come sempre super precisa, chiarissima, insomma abbiamo fatto un bel excursus sia dal punto di vista storico con la legge sia dal punto di vista proprio giuridico, abbiamo capito un poco quali sono le problematiche che questa pandemia insomma ha fatto emergere e quali sono le soluzioni che potrebbero effettivamente rimanere anche in periodo in cui la pandemia sarà finito e quindi andare a vantaggio appunto di tutte quelle condizioni che già sono state poste in crisi dalla situazione che stiamo vivendo. Ti ringrazio, ti saluto. Ciao a tutti, grazie, non vedo l'ora di essere in Viale Molise 68 a Milano, di potermi muovere, tornare alla mobilità. No, grazie Livio. Lo vorremmo tantissimo anche noi, infatti. Questa è stata Radio Virus in compagnia con Elena Caruso, io sono Livio e vi auguro una buona serata.